Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Spettabile direzione. Ho 36 anni e da febbraio 2009 mi sono ritrovato senza lavoro. Lavoravo presso la finanziaria di un'importante multinazionale americana. Come ho sempre fatto, e come me molte persone che si trovano nella mia stessa situazione, mi sto impegnando con molta difficoltà nella speranza di riuscire a costruire una futura professione in un settore che penso possa avere interessanti sbocchi per il futuro, quello delle energie rinnovabili. Fin qui, niente di eccezionale. Ogni momento di crisi richiede impegno da parte di tutti per riuscire a ripartire. Il punto, o meglio il problema, è proprio questo. Non percepisco nelle persone che mi stanno intorno, istituzioni comprese, la stessa tensione necessaria a risolvere i problemi. Ho come la sensazione che ormai la gente si sia adagiata su una situazione di comodo, difficile da abbandonare. Ma ci stiamo rendendo conto della gravità della situazione che abbiamo di fronte? Il grosso problema di questo paese non sono i gusti privati di Berlusconi. Il problema è che Berlusconi rappresenta la scelta migliore che questo paese riesce ad offrire. Questo è il problema. E io ho votato PDL. Dove sono finiti i giovani? Gli uomini della mia età? Mio padre, a 28 anni, ha costituito la sua azienda, offrendo lavoro a molte persone. Noi cosa stiamo facendo? Solo inutili discussioni. Lorenzo. Sono un manager d'azienda, 59enne, libero professionista. Nell'aprile 2007, quando di crisi economica nessuno parlava, ho lasciato volontariamente l'azienda di cui sono stato amministratore delegato e che ho contribuito negli anni, dal 2000, a far rinascere. Motivo? Contrariamente ai soci, volevo uno sviluppo dell'azienda. Vorrei dire la mia opinione riguardo la vicenda del Premier. Credo che l'Italia abbia necessità, come d'acqua nel deserto, di una classe politica sobria, presente nelle vicende che il paese attraversa, capace di dare risposte ancora prima che vengano fatte domande, e così via. Il Premier dovrebbe essere il più sobrio di tutti. Mi ricordo che la discesa in campo aveva significato proprio questo: dare al paese una figura diversa dai soliti politici o politicanti. Io sono toscano, di Grosseto, ed essendo maremmano sono abituato da sempre a dire come la penso, e credo che gente come me, che ha 59 anni suonati e in cerca di nuovi incarichi da due lunghissimi anni, si meriti delle risposte dalla classe dirigente. Le festicciole potrebbero aspettare. Giuseppe. A proposito della vita spericolata di Berlusconi, ci sarebbe tanto da dire e poco interessante, secondo me. Fino a poco tempo fa i commenti erano: i veri problemi del paese sono che la gente non arriva alla fine del mese, che ci sono i problemi degli anziani, eccetera. Se si scopre che una del PD nel suo privato ha delle strane manie sessuali, cosa facciamo? La facciamo dimettere? In questo paese è possibile incontrare persone ed essere sicuri che uno non appartenga a qualche cosca, o magari che un suo lontano parente non abbia preso una tangente per mettere la bicicletta nella rastrelliera del suo cortile. Ricordo i commenti del caso Clinton, ovvero che gli americani sono stupidi, cosa ce ne fregava a noi che erano fatti suoi, senza neanche capire il vero problema quale fosse. E poi, tutte le volte che uno vorrebbe fare una legge che assomiglia agli Stati Uniti, subito i commenti: ma noi non siamo gli americani, siamo diversi, e giù di questo passo. Fatto salvo quando i comunisti si sentono americani, se riescono a dimostrare che il diavolo esiste. Ippolito. Berlusconi dovrebbe aver imparato che organizzare il G8 è pericoloso. Perché ogni volta, e chissà perché sempre tramite lo stesso quotidiano, scoppia un casino. E prima del G8 dell'Aquila scommetto che uscirà da qualche ragazza che Mr. B non era il solo utilizzatore finale, ma che a sollazzarsi era anche qualche ospite alla Certosa, magari un topolane che qualsiasi, e allora la faccenda sarà più seria, perché si tratterà di favoreggiamento o induzione alla prostituzione. E questa sarà la prova provata di quanto fosse necessario il tanto vituperato lodo Alfano. Alberto, Modena. In merito ad un possibile complotto contro Berlusconi, io comincio invece a pensare ad una concatenazione di eventi che, aggregandosi, porta a pensare che qualcosa stia bollendo in pentola e che un atipico complotto ormai stia prendendo corpo. Non c'è una mente unica dietro a questo. L'Italia è povera di figure come il Cardinal Mazzarino o altre menti superiori. Però c'è una convergenza di interessi che sta aggregando una serie di squallidi personaggi dell'editoria, della magistratura e della politica, con l'unico scopo di eliminare il nemico politico per vie diverse da quella della sana e magari anche dura competizione elettorale, dato che, grazie alla pochezza di idee e di intelligenza politica dell'opposizione, Berlusconi e la sua compagine probabilmente rimarranno al governo a vita. Fateci caso. Il gruppo Espresso La Repubblica dà il via, circa 2 mesi fa, ad una campagna personale contro il Presidente del Consiglio e il PD e la sinistra in generale si aggregano con animo giulivo. Niente di speciale e niente di nuovo sotto il sole, salvo i toni troppo accesi, volgari, e la strumentalizzazione della povera signora Lario che, molto a sproposito, ha attaccato mediaticamente l'uomo, il marito e il Presidente del Consiglio, non facendoci una gran bella figura. Dopo l'affare Papi sgonfiatosi, dopo le elezioni, in una bolla di sapone, dal cassetto della Repubblica & Company sono saltate fuori qualche migliaio di fotografie che tale Puddu Soddu, o come si chiama quel tale fotografo sardo, ha fatto con un teleobiettivo da 1 chilometro di distanza. Così si dice. Domanda, facile facile. Com'è possibile che una persona si possa posizionare ad una distanza relativamente breve da una villa del presidente, in un momento in cui il premier si trova alle prese con importanti ospiti stranieri, fotografando gli stessi pure in momenti di intimità? E se al posto di un teleobiettivo ci fosse stato un mirino telescopico con sotto un fucile di precisione? Il nostro ex ministro D'Alema, 3-4 giorni prima che appaia qualcosa sulla stampa, rivela che sono in arrivo scosse nella maggioranza. Nel corso di una telefonata che è stata intercettata, un tizio si è messo a parlare di possibili donnine prezzolate per allietare l'entourage del presidente. Guarda caso, questo sempre sotto elezioni. Com'è possibile che qualche giorno prima che le notizie finiscano sui giornali, l'ineffabile D'Alema parli dei possibili nuovi futuri problemi della maggioranza e del presidente del Consiglio, invitando i suoi a tenersi pronti a tornare al governo? Questo sì che è grave, anzi gravissimo. Forse questo non sarà un complotto, ma sicuramente è una spontanea aggregazione di sinistri, personaggi diversi, che hanno tutti un unico interesse, la presa del potere al di fuori dell'ambito elettorale. Osvaldo. Premesso che il paese Italia ha problemi da vendere, che attendono di essere risolti e che forse ancora non sono nemmeno tutti individuati, penso che il clamore sollevato intorno alla figura del premier e alle sue vicende personali si spegnerà soltanto quando verranno date delle risposte. E le risposte potranno darle solo i protagonisti, ciascuno in base alla propria coscienza e al proprio senso di responsabilità. Il premier, d'altro canto, penso abbia tutti gli strumenti per rispondere. Se pensa che sia un complotto, potrà smascherarlo agevolmente, essendo il capo di un governo, avendo un'ampia maggioranza parlamentare, un alto consenso nel paese e potendo usufruire, oltre che dei mezzi mediatici, anche delle forze dell'ordine e di un intero ministero degli interni con servizi segreti inclusi. Quindi, se è una congiura di palazzo, saprà bene fronteggiarla. Ma si finisca di dare tanto potere ad un'opposizione che fatica a trovare una propria identità. E in chi potrebbe trovare appoggio questa opposizione? Nei soliti comunisti? Mi pare che ormai siano una riserva indiana. E poi Putin non è forse un grande amico di Berlusconi? Nell'America di Obama? Mi sembra che nel suo ultimo viaggio Berlusconi abbia trovato una calda accoglienza. E allora facciamola finita con questi vittimismi veramente poco credibili. Vorrei in ultimo fare un'osservazione di metodo in coloro che cercano di difendere il premier. Cercare di convincere l'opinione pubblica inducendo gli amici del premier a raccontare la loro versione dei fatti mi sembra puerile. È e rimane sempre la loro versione, rispettabilissima, ma personale. In Italia non c'è una stampa libera? Bene, allora a ciascuno il suo. Meglio tanti punti di vista che un pensiero unico. Alla fine prevalga, si spera, quello che saprà portare i fatti e non le chiacchiere. Fiorella. Buongiorno, direttore. Le parlo da padre di famiglia con il cuore in mano, senza polemiche e con pacatezza. Ci aspettano mesi difficili. In autunno ci saranno gravi problemi sociali, provocati dall'aumento della disoccupazione, mentre un debito pubblico vicino al 120% del PIL ci metterà sotto i riflettori degli investitori europei. In questa situazione sarebbe auspicabile un governo di pace sociale e autorevole agli occhi degli investitori esteri. A mio avviso, ora che mancano ancora 4 anni alla fine della legislatura, non sarebbe un tabù sostituire il capo del governo che, per quanto si sente tra la gente comune, è un ostacolo alla pace sociale e alla credibilità all'estero. la pericolosa frattura nella società italiana è sempre più profonda e difficilmente potrà essere rimarginata se non si cambiano gli attori in campo. Io spero nella presa di responsabilità da parte del gruppo dirigente del PDL di trovare un sostituto di dialogo senza cadaveri nell'armadio e che non abbia la capacità di condizionare l'opinione pubblica con artifici mediatici in grado di adulterare l'effettiva efficacia di governo. Margaret Thatcher, quando capì che la sua presenza era diventata un danno per il proprio paese, rassegnò le dimissioni. Io mi aspetto uguale amore per il proprio paese anche dall'inquilino di Palazzo Graziosi. Infine, la tesi che un primo ministro sia insostituibile è per me incomprensibile. Senza scomodare detti popolari riguardo ai papi, mi rifiuto di pensare che nell'esercito della destra non vi sia un Obama. Flavio Carugate. Caro Flavio, è fuori di dubbio che in questa fase di grave crisi ci sarebbe bisogno di una lungimirante e coraggiosa politica economica, una politica di grande coesione sociale. Ci sarebbe bisogno di un clima di concordia nazionale, di forte partecipazione a un'equa divisione degli oneri necessari a mettere l'Italia in grado di superare le difficoltà. Difficoltà che, peraltro, non sono che in piccola parte colpa o responsabilità di chi governa o ha governato l'Italia. Siamo di fronte a una crisi globale e di questo dobbiamo tenere conto. Per questo sono d'accordo sulla premessa della sua lettera. Il paese ha bisogno di un governo di pace sociale. Ma per raggiungere questo obiettivo ci vuole l'identica prospettiva di maggioranza e opposizione. E per ora, da entrambe le parti, mi pare che ci sia pochissima volontà di dialogo e di collaborazione. Senza dimenticare che le regole della democrazia vanno rispettate, anche quando danno risultati che non ci piacciono. I diritti umani sono universali, ma attenzione a cosa chiamiamo diritto. Il diritto alla vita, a non essere aggrediti, alla proprietà, sono e devono restare diritti universali. Questi nascono con l'uomo in quanto tale. Noi ci siamo inventati però altri diritti. Il diritto ad essere curati, ad essere istruiti, ad avere un lavoro. Questi non sono diritti umani universali, o non dovrebbero esserlo, in quanto prevedono non solo il diritto a non essere danneggiati, aggrediti, eccetera, da altri, ma anche il dovere per altri di fare qualcosa nei nostri confronti. Questi non sono diritti universali, si chiamano leggi e non possono essere imposti ad altri popoli. Marcello. Sono un non residente nei comuni colpiti dal terremoto, ma che ha una seconda casa quasi distrutta all'Aquila. Una seconda casa il cui mutuo lo stavo pian piano pagando grazie all'affitto percepito da 4 meravigliosi studenti con regolare contratto di affitto. Ad oggi, per il fatto di non essere residente, la banca non mi ha mai sospeso il mutuo. Ho dovuto continuare a pagare tutte le tasse e le bollette e non mi sarà riconosciuto nulla. Ho liquidità solo per altri 2 mesi, dopodiché non so come procedere. Se per gli aiuti si considerano solo i residenti, anche per gli immobili non destinati alla sola abitazione principale, si aiuta anche chi magari ha 10 proprietà, e all'Aquila troppi ce ne sono, penalizzando persone come il sottoscritto che stanno cercando di costruirsi per sé e la propria famiglia un futuro migliore. Per non parlare delle situazioni grottesche di coloro che hanno residenza solo sulla carta, per ovvi motivi fiscali, in uno dei comuni colpiti, ma che vivono tranquillamente altrove. Io ho fiducia nel governo che ho votato e nelle istituzioni, ma spero di non morire sperando. Gianluca Daniele. Ho letto un articolo sulla nuova bufala del ritrovamento di anelli mancanti tra uomo e scimmia. Interessante notare come nell'anno di Darwin si continuino a fare ritrovamenti di questo genere che poi, ovviamente, vengono smentiti dagli stessi evoluzionisti. Peccato che quotidiani e periodici, dopo aver riportato la notizia in modo sensazionale, non scrivano nulla sul fatto che sono tutti fossili che non rappresentano nessun tipo di anello mancante. Perché si continua a fare credere che sono stati trovati fossili che rappresentano la transizione da una specie a un'altra, quando in realtà, oltre a non esserci nessuna testimonianza fossile che descriva questo fatto, i fossili al massimo ci comunicano che non esiste evoluzione della specie. Si contribuisce ad alimentare una menzogna, e cioè che vi sia una spiegazione scientifica sull'origine dell'universo e della vita. In realtà non vi è certezza scientifica, ma solamente speculazione e interpretazione di dati che vengono continuamente confutati. Oggi la teoria dell'evoluzione della specie di Darwin ha 14 diverse interpretazioni. Se fosse una certezza, non si parlerebbe di gradualismo e allo stesso tempo di equilibri punteggiati. Fabrizio. Questa erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.